Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco. Si intitola La sparizione del nuovo romanzo di Andrea Fazioli, pubblicato da Guanda. Il nome di Fazioli era emerso già nel 2009 con Come rapinare una banca svizzera, libro che aveva avuto un certo successo. Protagonista stavolta è Natalia, una ragazza di 17 anni. Sconvolta da un delitto, smette di parlare. Com'è nata l'idea del romanzo? Ce lo spiega lo stesso Andrea Fazioli. È nata dal silenzio. In effetti era un'idea che portavo con me già da molto tempo, quando venni in contatto con la realtà dei malati di afasia. Cioè persone che non riescono più a parlare e hanno perso proprio la capacità di formulare parole, di articolare il loro pensiero con il linguaggio. E mi aveva colpito forse perché io mi guadagno da vivere con le parole, quindi pronunciando parole o scrivendo parole. E la realtà di una persona murata nel silenzio mi aveva colpito. Poi, visto che sono un autore di thriller, mi sono detto, immaginiamo che una persona testimone di un importante evento sia colpita anche per lo shock da questa malattia, quindi deve testimoniare ma non può parlare. Qualcuno ne è contento, altri invece l'aiutano a districarsi nel suo silenzio, quindi la ragazza protagonista si trova presa fra l'incudine e il martello. Parliamo allora di questa Natalia, di questa ragazza che, come dicevi tu prima, è colpita da afasia, cioè lei non riesce a parlare, non può parlare. Sì, non riesce, e poi naturalmente imparando pian piano, come una bambina, impara a parlare da zero, no? Non so più chi diceva che a essere veramente creativi sono solo i bambini e i poeti, perché sanno ancora stupirsi del fatto che le parole abbiano un significato. Ecco, visto che lei non le conosce più, pian piano si stupisce proprio anche delle parole, di tornare a parlare, ridiventa bambina, quindi vive la sua adolescenza ma nello stesso tempo anche una nuova infanzia, e pian piano comincia a parlare naturalmente come fanno i malati di afasia, a volte confondendosi. Per esempio, quando un malato di afasia vuole dire lampada, magari dice luna. Crede di aver detto lampada, ma tutti hanno sentito luna, e quindi la verità che pronuncia questa ragazza è velata da, in fondo, metafore. Un poeta le chiamerebbe metafore, però nel dramma della malattia sono tentativi per riuscire a parlare. Veniamo agli altri personaggi. Torna un personaggio che era già presente in altri romanzi, Elia Contini. Chi è? Elia Contini è il mio personaggio, ormai diciamo, dovrei dire personaggio favorito, personaggio visto che torna di romanzo in romanzo, anche se come sempre con i personaggi seriali il rapporto è un po' conflittuale. Era un detective, però bisogna capire, un detective nella Svizzera italiana bisogna già prenderlo con un po' di ironia, perché non è proprio la periferia di Los Angeles o la Sicilia, la Svizzera italiana, quindi è un luogo nel quale un detective si trova a fare più che altro il detective di prossimità, no? Come il medico di prossimità, quindi è l'equivalente di un medico di famiglia, di solito ha a che fare con piccole cose, e però ogni tanto inciampa in un mistero più grosso. E penso che la caratteristica principale del personaggio sia quello di avere un po' un'anima divisa com'è il territorio. Lavora a Lugano, che comunque è una città in mezzo alle banche, traffici, affari, e poi però abita in un paesino di montagna, e in una manciata di chilometri tra casa e lavoro ci sono due mondi diversi: un paesino isolato in mezzo ai boschi, dove lui scorbutico e solitario cammina, si aggira nei boschi, e invece una Lugano invece scintillante di banche e di uomini in giacca e cravatta. In genere il noir come caratteristica è quello di essere molto legato a un territorio. Il Canton Ticino è un buono scenario per ambientarci un noir? Ma all'inizio me lo chiedevo anch'io quando scrissi il mio primo romanzo, perché effettivamente era un territorio incontaminato per il noir, non ce n'erano prima. In effetti il mio primo romanzo fu rifiutato da parecchi editori perché dicevano, ma insomma non è il posto dove ambientare un noir. In effetti poi, visto che il primo romanzo fu un successo, anche i romanzi successivi vennero accolti in maniera favorevole proprio per il territorio. Per chi ci abita, quindi per i lettori svizzeri, è l'opportunità di vedere i luoghi della quotidianità trasfigurati da storie avventurose. E invece in Italia e in Germania, dove poi sono tradotti, spesso i miei libri vengono apprezzati perché aiutano a scoprire un territorio esotico. Insomma, molte persone sanno poco della Svizzera italiana, alcuni non sanno nemmeno che esistano. In qualche presentazione addirittura mi fanno i complimenti per come parlo bene italiano, pur essendo svizzero, con mia disperazione. Però, insomma, è la possibilità di scoprire un territorio quasi esotico, no? Come uno scopre la Svezia nei romanzi di Mankell, scopre la Svizzera italiana nei miei. E molti lettori mi scrivono proprio per dirmi che apprezzano questo fatto, la scoperta di un territorio così vicino eppure così lontano. E questo era Andrea Fazioli, ora in libreria con La sparizione, edito da Guanda. Veniamo ora ad un altro romanzo, si intitola Se tu fossi qui, l'ha scritto Maria Pia Ammirati ed è pubblicato da Cairo. Protagonista un uomo, Matteo, che perde la moglie a causa di una malattia. Sconvolto inizia a interrogarsi sulla loro vita comune, inizia a pensare di non aver mai conosciuto veramente la moglie, inizia a pensare che lei gli nascondeva qualcosa. Ma ecco come l'autrice parla del protagonista. Matteo è un uomo di circa 40 anni, quindi è un uomo